ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi e Zino, e alla parte tecnica Simone. Une. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi ascoltatori di Radio F. Questa è Piazza Alta, 18ª puntata. Marzi, Enzino, Simone, siamo maggiorenni. Evviva! Che bello! Posso finalmente guidare l'auto. Quello è sarà un problema. Buonasera a tutti anche da parte mia, ma anche da parte di Simone, che adesso ci saluta. Ciao a tutti. Due parole dette sono quelle da contratto, ora basta. Saluti, no, manca un saluto, il classico. Ah, sì, ciao, simpatici amici. No, niente da fare. Va bene. La saluto io. Ciao, Eddie. Ciao. Potevamo iniziare in modo migliore, perché direttamente da Foiano della Chiana e direttamente dal loro disco d'esordio abbiamo appena ascoltato gli Elefunk con il brano Nato Naturale Funky, che è la traccia numero uno di MILF, che è appunto l'album d'esordio uscito in questi giorni e che è stato presentato al Velvet. Non sai la fatica che ho fatto a trattenere Marzi quando hai detto il titolo dell'album. Se ho capito bene, può essere un genere che mi ha... infatti Marzi ha detto questa mi piace e non sapeva il titolo, non sapeva il titolo, però sai cosa vuol dire, Marzi? Non avevo dato la giusta attenzione al gruppo, ma ora penso che potrei approfondire l'argomento, sì. Allora intanto li salutiamo, magari, sì. Loro sono Marco, Andrea, Samuele, Jacopo, Giulio e Giacomo, gli Elefunk. Un saluto anche con la manina, guarda. Ciao simpatici amici dal 1976. Ma, Vabbè, a chi posto. Siamo? Dove andiamo? Chi siamo? Noi siamo Enzino, Marzi, Sara e Simone. Questo è Piazza Alta, il programma di Radio F che parla di Foiano, racconta aneddoti. Però ultimamente più che altro stiamo presentando dei personaggi, delle, insomma, persone, delle persone, delle associazioni, chi veramente rende vivo questo paese, dei singoli che fanno la storia nel tempo di Foiano e via di seguito. C'è una cosa se che non va, non va detta, va bene, ma come, ma noi lo raccontiamo qui, no? Sì? Ma come esce fuori il nostro racconto? Ecco, se ci volete trovare, a parte venire proprio qui in Piazza Alta Foiano, ci potete ascoltare. Bravo, molto semplicemente, come? Potete fare tutte le altre cose che vi aggradano fare, a seconda del mezzo che usate potreste sintonizzarvi su 101.2 della modulazione, sì, di frequenza. È vero? Oppure in streaming. Sì. Certo, sul sito www.radiof.it. Bravo. Sì, oppure Marzi, allora, per ragazzi, i più tecnologici, per i più moderni, che hanno scaricato, anche, potrebbero anche scaricare la app per Android ed Apple e che si ascoltarci. Chiama la app. Come si chiama? Come si chiama? Che non è che scrivi app nome... e poi dopo appare non richiesti. Radio F. A posto, okay. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ma Sara, ma, oppure siamo noi a chiederti dov'è che si misura il successo? Se stasera sono qui. È perché ci vogliamo bene, questa era la canzone. Ma se stasera non potessimo ascoltarci, domani possono risentirci domattina, in tarda mattinata, con calma, quando ormai il sole è alto, sulla pagina Facebook di Piazza Alta, dove però i nostri ascoltatori possono già interagire con noi scrivendoci, salutandoci, mettendo tanti mi piace e via di seguito. Sì, siamo quasi a 300, tra l'altro, mi piace, un successone, è tutto merito mio, insomma, va detto. Questo è chiaro, nasconderci dietro a un dito. Come è noto, parlando, insomma, di gente della Val di Chiana, abbiamo sempre a cuore le persone bisognose, con un certo disagio. Ecco perché, ecco perché io sono qui con voi. Ecco, non è che sei bisognoso, però questo disagio si sente. Questo lo dice anche il tuo psicanalista, esatto, lo sappiamo benissimo. Analista. Che se no poi psicosa, ma lui è andato anche sul ma l'argomento di questa sera, se mi permettete, volevo introdurlo perché è un argomento importante, perché ci dà speranza, soprattutto a me dà speranza, perché nonostante ma l'età che passa il fisico può essere mantenuto in forma e soprattutto lo spirito competitivo. Menzana, come vado? Ma io per ora piano, però benissimo. Allora, ma va bene, si parte sempre cominciamo con calma. Cominciamo ad introdurre i nostri ospiti. Di cosa parliamo? Intanto diciamo il tema, l'argomento. Ce l'hai scritto lì, guarda. L'argomento potrebbe essere quello in scritto in grassetto, si legge bene. Aspetta il che metta a fuoco. Avisti Foiano, ma il tema vero lo sapete qual è? Diccelo. Lo sport. Ma ancora. Nella fattispecie generico. La corsa. Il podismo. A piedi. Lo spirito che unisce e spinge le persone come quelle che abbiamo qui davanti, di fronte, che a breve a fare delle imprese ai limiti dell'umanità e anche dell'umano, forse. Dell'umanità. Forse più dell'umano che ma dell'umanità. Ne parliamo tra pochissimo, li presentiamo, eh? Allora andiamo con ancora gli Elefunk che ci piace. Ah no, scherzavo. Con i Telefunken. Solución, oh, era herida. montañas de la infancia. Un'altra novità per questo secondo brano di stasera è anche un nuovo progetto musicale, perché loro sono i Vincent Butter ed è il nuovo progetto di Paola Mirabella, batterista degli Honey Bird and the Birdies, con Andrea Pulcini. E che... abbiamo sentito il brano Hermanos sui Pulcini. Non ho fiatato. Io no, volevo solo dire che salutiamo anche gli Honey Birds, oltre che questo nuovo gruppo, perché sono amici. Ti ricordi, Marzi? Ma di racconta, sì, racconta di quella volta. Quando ancora non erano Honey Birds, ma erano degli implumi passerotti. E... Pulcini, che è vero, ci stanno facendo bene. Bene. Ah, che bene. E quindi c'è questo nuovo progetto e il lavoro si può scaricare in free download dalle piattaforme Bandcamp e SoundCloud. Sara, a proposito di progetti, anche noi ne abbiamo uno in gestazione che è fondamentale per la nostra trasmissione. Sì, vero, vero, vero. Udite, udite, ascoltatori, perché adesso, insomma, c'è una notizia importante, perché nei prossimi giorni sulla nostra pagina Facebook metteremo una serie di loghi per il nostro programma per Piazzalta nei prossimi giorni. E li vorremmo condividere con voi. Io mi sono già dissociato, perché chiaramente ho avuto in anteprima qualche segnalazione e, come al solito, non sono non d'accordo. Sei d'accordo. Ma questo non è può d'accordo. Essere, ma il fatto che non sia d'accordo può essere un segno di successo. Esatto, perché come sempre non hai capito, lo capirai fra qualche tempo, quello che stiamo e che stanno realizzando. Ma non importa, Marzi. In sede processuale capirò e apprezzerò questa cosa. Ma è arrivato il momento. Comunque, attenzione, noi chiediamo consigli ai nostri ascoltatori. Sì, assolutamente. Quindi diteci che cosa ne pensate, qual è il logo che vi piace di più e poi noi sceglieremo, vero? Giusto. Marzi? Sono d'accordo. Questo sei d'accordo. Siamo in una trasmissione democratica, voi esprimete il vostro pensiero e poi decidiamo noi. Ma siamo arrivati finalmente alla presentazione dei nostri amici. Bene, abbiamo qui davanti a noi, e fidatevi perché ce l'abbiamo davanti, tre ragazzi. C'è due maschi e una pensavo ragazza. Tre ragazzi, poi due. Abbiamo Roberto alla mia sinistra. Buonasera a tutti. Tamara alla mia centrale. Ciao. Che sera. Anche e Alessandra sarà una alla mia destra. Ciao a tutti. Bene. Buonasera ragazzi. Perché ciao, ciao. Sono qui, Enzo? Perché sono qui? Perché stasera l'argomento di stasera, parlando noi prevalentemente di associazionismo, di eventi che fanno gruppo, stasera ci occupiamo, come dicevo prima, di sport e soprattutto di podismo, da non confondere con la corsa, vero Roberto? Sì, io interrompo subito Marcello perché mi fa piacere. Bravo, che ti sei subito ambientato qui noi per fare, no. In realtà qui in questa emittente radiofonica avevano finito il gas e noi abbiamo portato un po' di gas in radio. Bravi, stasera. Bravi, così dopo mi piace. Il gas in curva, il gas in radio. Gas in radio, questo può essere già, mi piace più un come ottimo inizio, come logo, come logo. Prova a scriverlo, vediamo. No, loro fanno voi fate parte del gruppo podistico Avis Foiano 2010? Perfetto, 2010. Ho studiato 2010, studiato, perché, preparatissimo. Perché è nato? Perché il gruppo è nato nel 2009. Perfetto. Mi sembra una consecutio temporum. Ma per un anno non avete fatto niente, quindi diciamo per un anno abbiamo pensato. Esatto. Poi il 18 novembre 2010 abbiamo detto, ma fondiamolo questo gruppo. Ma quindi, perché infatti prima di una prestazione sportiva ci vuole un attimo di preparazione, no? Anche mentale soprattutto. Soprattutto. Oh, se siete qui stasera perché vi ho chiamato chiaramente. Ma perché? Perché io so che il vostro spirito, il vostro gas è fondamentale, e in questo breve tempo dalla vostra nascita ad oggi avete fatto delle cose veramente impressionanti. Soprattutto impressionati per uno come Marcello che sta per cui l'attività fisica a sedere. È totalmente, ecco. Però gli avete dato speranza, questo è... Sì, io infatti mi sono diciamo innamorato di questa cosa, perché danno speranza anche a gente come me, dove l'essere sedentari è un po' uno stile, è il senso dell'esistenza. Esatto, che c'è vita, c'è dopo, modo anche di usare gli arti in modo okay, diverso. Ti fermo e ti mando a bere, perché lui si è già stancato sulla parra. Mi faccio io la prima domanda. Il nostro motto, quindi: lascia il divano, abbandona il divano, vieni a correre con la podistica Avis Foiano. Ma bellissimo, segniamolo. Io farei un applauso se non avessi le mani occupate. Guarda, questa è poesia. Chiudiamo la trasmissione. Poi dopo è stata lanciata anche una campagna, però, per l'abbandono del divano. Bellissimo, mi sembra giusto. Foiano ne erano stati abbandonati abbastanza lungo le strade. Ecco, ma a proposito di questo, una domanda sulla serie, poi dopo sappiamo come funziona. No, quando siete nati, lo sappiamo, 2010, ma chi l'ha ideato, chi l'ha pensato, perché? E perché? Allora, il gruppo, diciamo così, l'ha pensato e l'ha ideato il presidente dell'Avis comunale di Foiano, quindi Maurizio Tacconi, perché... per la cronaca, per chi non lo conoscesse, anche lui è sulla mia falsa riga, un po', diciamo, fisicamente non è che dimostri tutta questa vivacità. Sì, però è stato, diciamo così, è stato vivace nel proporre e nel volere la nascita di questo gruppo. Perché è nato il gruppo? Ma fondamentalmente perché a Foiano esisteva, esiste tuttora, una corsa chiamata la Camminata del Donatore, sì, da oltre 30 anni, e quando siamo noi l'edizione era la 38esima, e Maurizio aveva piacere che nell'ambito di questa corsa ci fossero anche delle casacche che simboleggiassero la Foiano podistica, che era esistita ma che si era persa negli anni. E quindi nel 2010 è stato, diciamo così, è stato riproposto questo gruppo podistico che già esisteva negli anni 80, e siamo partiti in 5 e nel giro di 3 anni siamo diventati 70. Ecco, quindi vedi, questo, parti in 5 e arrivi in 70. Normalmente tu fossi partito te, Marcello, non saresti arrivato. Io per stando dire, a sedere, diciamo, facendo vita sedentaria, rimango da solo. Il mio analista infatti mi propone sempre questi tipi di... Ma io, e poi scappa, lui scappa. L'analista. Voi nello specifico, certo, da quando è che siete nel gruppo? Roberto? Io dall'inizio. Io da un anno. Un anno. Da un anno? Alessandro? Un anno, da marzo 2013. E siccome io vi seguo un po' così, a parte vi vedo proprio passare di corsa, ma poi ogni tanto seguo qualche cosa. Non dietro la camionetta dei carabinieri. No. Ho un passato, diciamo, non tanto felice di podista. E so che avete fatto tantissime. No, scusate se mi confondo, ma stanno facendo delle foto in posizioni meravigliose, tantissime gare. Vi faccio subito una domanda: qual è quella più che vi ha dato più soddisfazione, ciascuno di voi, la gara che avete portato a termine? Parto io? Sì, partite, vai Roberto. L'ultima maratona. Io ho fatto molte gare. Allora, fondamentalmente non mi piace correre tutte le distanze. Non vado bene in nessuna, però le corro tutte. Bravo. Da 2 km fino a oltre 100 km, da asfalto a trail, ultra trail. Però la maratona è quella che forse mi piace preparare sempre bene, con rispettando programmi, insomma, in maniera meticolosa, è quella che poi alla fine forse mi dà più soddisfazione, insomma, riesco a fare dei buoni tempi. Ok, poi ci dirai, non ce li dire ora, ce li dirai dopo i tempi, così sveniamo. Tamara? Per me anche la prima maratona, che è stata esattamente 2 settimane fa. Ah, quindi sei ancora stanca? No, per niente. No, ci mancherebbe altro. No, in realtà è stata un'esperienza bellissima. Dove l'hai corsa? A Barcellona. Ho visto una foto. Complimenti. Grazie. Per le Ramblas. Alessandra, sì, guarda proprio. Quindi abbiamo un fiocco rosa sulle scarpette del running della prima maratona. Della Tamara. Bene. Invece Alessandro? Ma io invece quella che mi ha dato più soddisfazione, diciamo, è stata un trail, la Ronda Ghibellina di 47 km, perché è stato molto sofferto. Al 30° chilometro ero già in grande affanno, quindi devo fare altri 17, però ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta, sì. Nonostante Roberto devo contraddire Alessandro. Perché la corsa che ha dato più soddisfazione a Alessandro è stata la Straindicatore. Sesto assoluto. È vero, prima edizione della Straindicatore, gara importantissima. Chilometri 10. Nel centro di tutto dentro indicatore, che praticamente sì, sono tre case, quindi, quindi era, proprio era una, entravi in casa della gente, riuscivi sì, pare che veramente il problema fosse individuare la direzione, esatto, perché a indicatore chiaramente cambiando. Vai Simone, vai, continuiamo dopo. You could be angry, you too, another world war. Are we incredible? Don't believe me, I'm wrong. I don't believe that is something that I still don't see. I don't believe that is something that I still don't see. Loro arrivano direttamente da Torino, sono i Foxhound e il brano che abbiamo ascoltato è Criticize You, che è la terza traccia di Concordia, album sì, del 2012. Famosissimi anche loro. Sì, conoscevate. Ho fatto un cenno a Marcello di aspettare a parlare, ora non parla. Volevo fare solo dei saluti. Esatto. Volevo salutare Caterina, che è un'altra del gruppo podistico Avis Foiano 2010 e che ci ha salutato, poi anche Francesco, poi Plankton Dada Wave, che non so chi sia ma lo salutiamo, Paola P. Birdi, Mirabella e Riccardo, sono un po' di amici che ci stanno seguendo in questo momento. Bene, io volevo salutare un attimo Alessandro, che compie gli anni stasera, oggi. Ciao Alessandro, auguri, non li dimostri, che non è il nostro ospite. Effettivamente non li dimostra. No, non è il nostro ospite. Ok, perfetto. Anche io mi associo ai saluti alla Caterpillar. Caterpillar, l'ho capita adesso. Messaggio in codice, d'accordo. Allora, io sono curioso, dopo quello che ci siamo detti prima, voglio sapere dai nostri gentili ospiti qual è stata la corsa più strana, perché nel, diciamo, nel mondo del running, nel mondo del podismo, bah, c'è anche degli, scusa, estremi. Scusa, ma fermiamoci un attimo, nel mondo del running c'è cioè, un'affermazione, una frase che bella. È vero? Se l'hai preparata con ho fatto tre ore di inglese, di spelling per avere la per giusta pronunciarla intonazione bene. E siccome ci sono chiaramente anche degli estremi sui percorsi, sui luoghi, bravo, mi sembrava, aiuto, e allora volevo sapere, io sono molto interessato alle corse più strane che avete fatto, che ci potete raccontare. Partiamo da qui, e dai, dopo anche sulla preparazione. Ma fai una domanda alla volta. Dopo me li scordo, la mia memoria. Noi ce le segniamo, vai, le corse più strane. Prego ragazzi, Roberto, inizia sempre te, vai tanto ormai. Allora, la corsa più strana sicuramente è l'Arranca Birra. Beh, che già il nome di per sé dice tutto. Stimola la ma curiosità. Ma la particolarità della corsa, al di là che... Dove viene fatta? Allora, partenza arriva a Courmayeur, quindi Courmayeur. Su paesaggi, è un trail di fatto, quindi si corre tutto fuori strada. Ma la cosa più particolare è il fatto che ai ristori troviamo fiumi di birra. Bellissimo. E ad ogni lattina di birra bevuta e controllata da giudici severissimi vengono scalati 10 minuti sul tempo che poi uno metterà per percorrere l'intera tappa. Dei geni, bellissimo. Grandissima, grandissima più corsa. Più bevi e più il tempo si abbassa. La mia moglie quest'anno si è molto molto preoccupata. Quanti ci ho messo bevuto? 3 ore più della mia moglie quest'anno. Arranca birra. Si era perso, siamo andati a cercarlo e l'abbiamo trovato in condizioni vergognose. Hai partecipato anche te, Alessandro. Sì. Come sei andato tu? Ma no, diciamo che sono andato abbastanza bene. Sulla birra se la cavano. Sulla tutti birra, benissimo. Il problema non è solo la birra, perché a metà, nel punto più alto, praticamente, nel Gran Premio della Montagna, diciamo, sì, c'è un ristoro dove ci sono birra, salsicce, polenta e fontina. Quindi Marcello, secondo me questa, ecco, te la potresti fare. Sì, sì, sì, già ha cambiato espressione. Approfondiamo, sì, perché potrebbe essere vedo la luce negli occhi di Marcello. Potrei rivedere i miei preconcetti. Ma quanti chilometri sarebbero in realtà? Cioè, quanti allora, sono? La corsa dovrebbe essere di 18 km. Se quest'anno, causa maltempo, visto che si svolge ad ottobre, primi d'ottobre, già c'era la neve nelle vette, è stato ridotto il percorso a 13 km. Però ecco, il percorso originale sono 18 km. È vero che la fate con le scarpe chiodate? Sì, sì, specialmente la parte da tornare. Sì, dopo la birra. Invece un'altra gara che fate sulla neve, se non sbaglio, sì, giusto? Sì, ci piace a noi abbinare, allora, dobbiamo essere sinceri, la corsa anche alla vacanza, sì. Quindi quando arriviamo in inverno andiamo a cercare la neve e cerchiamo le famose ciaspolate, quindi sì, corse sulla neve con le ciaspole. E quest'anno ci siamo tolti la voglia di correre sulla neve con le ciaspole perché abbiamo partecipato alla Ciaspalonga delle Marmarole, il nome già dice tutto. E sono 43 km sulla neve con le ciaspole con oltre 2000 metri di dislivello. Ma voi siete pazzi. Scusa, da fare in quante settimane? Perché 43 da fare in un tempo massimo intorno alle 10 ore. Beh, ma comunque, quindi viene dato il tempo massimo. C'è un tempo lì. Sì, perché dopo 10 ore vanno a cercarli, perché probabilmente partono i cani. L'avete fatta? No, no, sì, solo questo è ancora. A questo ho partecipato io nella distanza lunga, quindi nella 43 km, e Federica Mencarelli nella 21. Che, e tra l'altro, ecco, e tra l'altro, diciamolo, è stata anche la vincitrice donna. È stata grandiosa. Quindi, noi siamo partiti da Foiano della Chiana, volevo, certo, dire, siamo andati nelle Dolomiti a vincere. E la Federica ha vinto. Beh, corta 21 km e più di 1000 metri di dislivello. Sì, cioè, sì, beh, altro che corsa. Questo si ricollega un po' con le nostre prime puntate, quando nella storia di Foiano narravamo che l'altezza in origine, in tempi nel Giurassico, mi sembra, Foiano era almeno a 8000 metri. Ma diciamo la nostra Federica è un po' più giovane. Volevo dire che anche noi abbiamo nel nostro DNA, noi foianesi, delle diverse altitudini. Sara, ti ringrazio. Prego. L'altra parte della domanda era sulla preparazione, vero Marci? No, volevo sapere da Tamara ancora se lei aveva fatto delle cose strane al limite come quelle che abbiamo appena sentito. No, io no, sono abbastanza classica, diciamo, in realtà, per chi si fosse messo in collegamento adesso con Radio F, sì, stiamo parlando di corsa, no? Perché sì. Marcello fa delle domande. No, io no. No, a parte qualche trail, ma cose strane no. Ho capito. Strane, insomma, un po' particolari. Quanto vi allenate? ogni settimana, ogni mese, ogni anno? Allora, quanti avete fatto il calcolo dei chilometri? Sì, sicuramente. No, la domanda è mal posta. In birreria ogni quanto c'è spesso. Dopo ogni corsa sicuramente. Okay. C'è sempre da festeggiare, ma certo, non le vittorie, è giusto, è giusto, non sapete quanto vi capisco. E però quanti chilometri fate mediamente all'anno? Io mediamente in un anno 3500 chilometri di corsa, no, no, a piedi, di corsa. Di corsa. E io quanto consumi, scusa, no, perché diverse suole di scarpe. Sì, immagino, sì, immagino. Io sono onesta, non lo so, perché è il primo anno, ora tra un po' tirerò le somme, sicuramente non ai chilometri. Ecco, ma pensi di continuare, Tamara? Sì. Guarda, per me già aver iniziato è una grandissima vittoria, quindi mi diverto, non lo concilio bene con insomma altri impegni come tutti noi, il lavoro eccetera, però spero proprio di sì, perché mi diverto, mi entusiasma anche, ma non solo per le mie di gare, che ne faccio pochissime eccetera, però per le gare di tutti gli altri. Poi siamo veramente un bel gruppo, parte della mia famiglia fa parte del gruppo, infatti anche di questo poi ne volevo parlare. Sì, devo dire che insomma questo dà molta soddisfazione, quindi siamo contenti sempre. Alessandro invece quanti chilometri fa? Intanto, è sicuramente meno coinvolto. Ragazzi, gradirei essere chiamato il Keniano Bianco. Scusa, negli ambienti podistici sono conosciuto come il Keniano Bianco. Alessandro, nostra colpa, mia colpa. Marcello, non ti sei preparato perché mi meraviglio di te. No, io ti volevo dire che ti vedo sfrecciare con la tua muta fosforescente verde e sei per me come una saetta nel deserto, un cielo nuvoloso. Da qui il Keniano Bianco per l'ampia falcata. Questo è vero, non spiegare troppo. Leggerezza della patetico corsa. E quanti chilometri fai dal Kenya a qua, per dire, ogni anno? Diciamo circa? Ma quest'anno sui 2500-2600 chilometri. Pensati. La gara, vedi però, ragazzi. Pensa che anche la catalitica lui non inquina nemmeno. Il gas va usato con moderazione. Giusto, giusto, giusto. Yeah. Start All Over Again, questo è il titolo del brano degli inglesi Spiritualized che abbiamo appena ascoltato, quarto brano della scaletta di stasera. Love, Peace and Happiness, mi viene da dire dopo questo titolo. Mamma mia. Visto ad Arezzo Wave qualche anno fa. Vedi, vedi, vedi? Qui, vedi, guarda, tanto non per, sai. Tanto per dire, via. Simone, di qualcosa, Simone, di. Io sono commosso. Non sai la soddisfazione che dai al nostro Simone. Ho comprato anche un CD di Spiritualized. Vedi, vedi, vedi. Non mi ricordo il titolo, però ce l'ho. Ecco, adesso hai lasciato. Ora, Marcello ci senza manca parole. Anche che dici che ti piace questo genere musicale e io posso anche andare. Oddio, si è comprato il disco in teoria. Mi ricordo che mi colpirono, quindi. Che c'entra? Sai benissimo, diciamo che ci Roberto sono... compra tantissime cose, quindi... No, però diciamo anche la verità che Roberto stava passando lì di corsa, per Arezzo Wave. Non è che si era fermato ad ascoltare. Feticcio, diciamo, stava correndo, ha preso un CD il primo che è capitato. Scusa, al volo. L'hai presente gli adesivi dietro le roulotte quando vai quando in sei giro. Stato in un posto e lui così ha fatto con il CD. Ma sono sicuro che te e Marcello ce la fare una domanda veramente io ne avrei tante interessante domande, ma preferisco il silenzio in questo momento. No, allora io sempre sull'argomento che trattavamo prima voglio chiedere a Roberto della 100 chilometri del passatore, voglio sapere tutto. Allora, corsa di 100 chilometri da cui con il partenza titolo? Da Firenze ed arrivo a Faenza, tutta su asfalto, con due belle salite, la prima che ci porta fino a Fiesole, la seconda fino al passo della Colla, siamo a 1000 metri, e si svolge l'ultimo sabato di maggio. Io l'anno scorso ho partecipato alla mia prima edizione, mentre erano 40 anni che veniva proposto a questo tipo di ultramaratona. E è una corsa molto affascinante, sinceramente, ma anche molto molto molto dura, perché preparare una 100 km richiede sicuramente molto sacrificio. Beh, ecco, io infatti, scusa Enzo, a questo proposito non ho fatto la domanda a caso, perché in questi 100 km vorrei sapere da Roberto a che chilometro ha cominciato a vedere i santi o la luce, diciamo, se uno è un po' agnostico dice ho visto la luce, ho visto i santi. Io ti dovessi dire nei 100 chilometri, nelle 10 ore, cosa ho visto, non lo so. Non lo ricordo. Mi ricordo che faceva freddo, questo sì, perché ecco. In cima al passo della Colla faceva anche qualche fiocco di neve. Ecco, ma quando uno arriva... Non so, no? Se era un'allucinazione, darsi, ma quando uno arriva, le ore successive all'arrivo di una 100 chilometri, come stai? Riconosci? I giorni. No, allora, io devo dire che sono fortunato, mi reputo fortunato perché il recupero... il mio recupero è molto molto veloce. Allora, quando arrivo io passo un'ora inchiodato, cioè per farmi muovere devono essere in 3 o 4, ma veramente, però riesco nel giro di poche ore ad assorbire tutto e nel giro di un paio di giorni anche a ripartire. Non con 100 chilometri, chiaramente. Vorrei ben sperare, insomma. Comunque ragazzi, allora, vi devo dire, ora io non voglio anticipare niente, ma sabato, no, infatti, no, di questo parliamo, siamo assolutamente Foiano, siamo qui per questo, qui tra l'altro. A Foiano ci sarà una corsa chiamata la 6 ore del donatore, seconda edizione che si configura come un ultramaratona, perché chi corre per 6 ore riesce a coprire distanze sicuramente superiori alla maratona, quindi a 42 certo. km 195 metri, e c'è gente Di fuori nel senso Foiano. Che viene da molto ho detto, ho fatto la 100 km, sono fortunato, recupero velocemente. Allora c'è gente sabato che di 100 km l'ha fatti per 10 giorni. 100 km oggi, domani là, per 10 giorni. C'è gente sabato che ha fatto la Torino-Roma non stop, 712 km. C'è gente che è campione italiano di ultramaratona di 24 ore. Marcello è stanco ad ascoltare. Stavo riflettendo che in altri tempi questi soggetti sarebbero stati internati. Fatto, cioè la chiusura del manicomio ha creato codisti. Cioè, l'analista, il mio analista si confonde con me, ma probabilmente avrebbe un pubblico molto più ampio nel settore sportivo. Ora però prova a fare una domanda seria. Chi? Lo so che non io è questa la trasmissione. No, io. Ah, no, non è questa la trasmissione. Preoccupato. La faccio ma a tutte... io ero serio, Sì, sì, no, lo so. Ma siamo noi che non siamo seri. La faccio a tutte e tre, forse Roberto può rispondere meglio, proprio perché io capisco che poi ci racconterà che sta preparando anche un'altra cosa molto importante. Qual è il motivo per cui uno fa per una settimana i 100 km al giorno, oppure va da Torino a Roma, cioè a parte capisco uscire di casa e stare lontano dalla moglie un attimo, ecco, cioè, posso capire il discorso atletico, lo stare bene, il benessere, però forse tutti i giorni 100 km proprio bene non fanno. A volte forse si cerca di capire dov'è il limite, ma la cosa bella è che non si trova. E questo è un problema, perché continui a correre, allora, come Forrest Gump, è che non si trova. Ti do... cioè, perché per fare certe cose conta l'allenamento, certo, conta le gambe, ma conta soprattutto il 70% la testa. Ci credo. Immagino. Perché è quella che ti manda avanti. Ecco perché allora non è uno sport. Sì, per te. E si vede che la famiglia della Tamara ha una testa parecchio forte. Perché? Sì. Perché Tamara? Perché? Bella dura, direi, sì. Perché siamo quattro sorelle e praticamente corriamo tutte e quattro. Ricordiamo i nomi, ma solo perché sembra uno show di lingua. In ordine. Tania, Tamara, sì. Tatiana, Pamela. Ecco, poi chiederemo perché ha chiamato Pamela la quarta e non... Perché erano finiti. Era rimasta Tabata o Tarzan. Che insomma, per la Pamela poteva anche andare bene. Titta, che poi, ciao, poteva andare. Che poi Tatiana, sì, se non sbaglio, sì, è la moglie del keniano bianco. Esatto. E lei è... una keniana, no, diciamo, bianca. Così, direi proprio di sì. Diciamo così. Che forse... Che il salto numerico, il nostro gruppo, è esploso con l'arrivo di Tatiana. Sì. Quindi... circa un anno fa, forse qualche mese più, perché è arrivata Tatiana, dietro Tatiana tutte le sorelle, certo, immagino, tutti i mariti perché poi ci dovevano i figli, 15 persone subito almeno, ma anche una ventina, non dovevi fare conto, anche una ventina. Sì. Allora torniamo solo un attimo però alla manifestazione di sabato prossimo, così sì, la pubblicizziamo un po' meglio. È una 6 ore che viene organizzata qua in paese, proprio, giusto? Sì, allora praticamente si svolge tutto all'interno del centro storico di Foiano, su quindi un percorso Piazzata, di vedi un che... chilometro e 14 metri, ecco, da percorrere per 6 ore. Quindi lo fanno 170 volte praticamente la fase. Allora sì, chi vince diciamo lo fa una settantina di volte, e di media si va dai 50 giri, quindi 50 chilometri, 60 la fate, chilometri. Però, la fate tutte e tre? Non solo io. Solo il keniano bianco. Però se mi permetti, Roberto, l'anno scorso, che era la prima edizione, sì, io ho visto anche ultra settantenni partecipare alla gara. Ed è splendido. Perché c'è un motivo. Questo tipo di corse, quindi queste ultramaratone, dove chiaramente non conta la velocità, certo, ma qui conta la resistenza e tanta determinazione, è, diciamo così, molto frequentata dalle persone sopra i 50 anni, oltre i 60 anni, che se la prendono comoda, però riescono a mantenere quel passo per 6 ore costante. Io ora sto riflettendo, ha detto una cosa che cioè io ti Marcello sto cercando, no, no, sto cercando, sì, sì. Guarda, io ho convinto molte persone, qui c'è la Tamara, sì, che l'hanno, io sono un approcciatore, no, del gruppo, sì, approcciatore. Sì. Ora lo dirò alla Federica, sì, ma lei lo sa, è corrente. E io quando ho approcciato la Tamara, la mia domanda è sempre la stessa: ma lo sai che a Foiano c'è il gruppo podistico? Sì, lo so, ma perché non ti iscrivi con noi, vieni a correre con noi? Perché non ho tempo, mi disse. Che è vero. Cioè, nel giro di un anno, la Tamara, oltre ad aver fatto non so quante corse l'anno scorso, quindi aver partecipato a non so quante manifestazioni, è riuscita a fare la maratona. La maratona di Barcellona, vorrei dire, è una maratona dura, è una maratona dove c'è anche la salita. È una maratona dove quest'anno ha fatto anche molto caldo. Lei l'ha fatta in 4 ore, poco più. Vedi Marci. Grazie, Roby. No, ma sono è un meriti. Messaggio di speranza anche, sì, questo, no, per Marci. Però vedo che Marcello ha cominciato a guardarmi con un altro occhio. Guarda, adesso, è vero? Sì. Se mi togli il dolore dalle caviglie e dalle ginocchia, ma ci aspetta, posso pensare. Lo puoi convincere. Prima ancora di partire, lo puoi convincere con il botto. Anzi, no, lo facciamo dopo. Va. Il botto si fa noi sabato, è alle 7 il tonfo su Foiano. Beh, poi tutto in Piazza Alta, che per noi, voglio dire, è il massimo. Cioè, la corsa in Piazza Alta. Sì, da. Sotto 1976 qua sotto. Sotto Radio F, sotto Radio F. Lo vedranno 70 volte. This is the next century, where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we lie. like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really. Your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could I burn? Yes, it Questi erano i Blur, la band di Damon Albarn, e il brano che abbiamo ascoltato, The Universal. Marzi, ma dai, guarda, Blur, io l'hai sentito? Comincio veramente a stupirmi gradevolmente, in maniera gradevole, di questa selezione che ultimamente Simone tira fuori. Allora, volevo sapere una cosa. Parlavamo prima di queste gare un po' al limite. No. La preparazione, ma lui viaggia proprio da una cosa a un'altra. Sì, allora facciamo così: rimasto... segnati questa domanda, zitto, segnatela. E ritorniamo un attimo alle 6 ore di sabato che ci sarà Foiano. Ci eravamo preparati anche, eravamo fuori onda, al proprio. Botto, esatto. Avete detto faremo il botto. Faremo il botto perché allora la corsa partirà alle 13 e chiaramente la sesta ora corrisponderà con le 7 del pomeriggio. E a scandire la fine della corsa ci sarà un boato e i corridori nel percorso dovranno fermarsi a porre un adesivo in terra con sul riportato il numero del pettorale, giusto per dare poi la possibilità alla giuria di misurare gli ultimi metri percorsi. Che bello, guarda, ma questa è poesia, Marci. Se no. Tu solo avessi mai fatto un metro di corsa, niente, ma... apprezzeresti. Poi dopo 6 ore io mi sarei anche scordato quel che dovevo fare con l'adesivo. No, soprattutto ci sarà chi a ogni giro cioè fate una X sul pettorale, non lo no, so. No, saranno tutti dotati di microchip. Ah, sotto bellissimo. Cute verrà sì. C'è un chirurgo che impianterà prima questo di partire. Microchip. Che bello. Però volevo dire prima a proposito di botto con Roberto che ti stai preparando per una gara semplice. Sì. Ecco, dici un po' di che cosa si tratta. Allora, la gara semplice si chiama, sì, Tour de Jeanne, okay. Una corsa che partirà il 7 di settembre, tra l'altro così, data del mio compleanno, non so se è un... Ecco, poi tra l'altro è indicativo il fatto di dire una data in cui parti, perché normalmente arrivi no, anche nella stessa data. No, perché non si sa se arriva quella corsa, esatto, lì, ora... al di là di tutto, perché è una corsa molto dura, insomma sono 330 chilometri. Calma Marci, hai 330 capito? Km, sì, ma non nella distanza che fa paura. Ecco, perché c'è, allora, c'è un tempo massimo innanzitutto che sono 150 ore, sì, circa 6 giorni. Allora. C'è una distanza di 330 km che in 6 giorni, bene o male, si dice, riesce a percorrere. Ma il dislivello, perché lì c'è un dislivello praticamente di 24.000 metri. Cioè. E è quello che si sente, Roberto, è bello averti qui questa sera e riserveremo sempre un ricordo di te così, così, così vogliamo, con sorriso, ti vogliamo ricordare, con sorriso, così a sedere ti vogliamo ricordare tranquillo. No, ma la cosa buffa è quando fa certe corse, ora chiaramente io così al limite non ne ho mai fatte, però ho fatto trail anche sopra 100 km, insomma con diverse migliaia di metri di dislivello, e te lo chiedi mentre corri, chi me l'ha fatto io fare? Volevo arrivare te proprio lo chiedi qui. Molte volte la domanda è lecita, ma che risposta ti dai? Allora, la risposta io ancora non me la sono data, ma c'è una cosa, ed è questa, che il giorno successivo a quando sei arrivato, quindi a quando hai completato questi sforzi sovrumani, si può dire, sei già a cercare la prossima corsa da fare. Quindi la prossima... E non è una corsa di 5 km. Di solito, ecco, diciamo che crea dipendenza. Ripeto che a me mi piace farle tutte da 2 km fino a oltre 100. Ecco, Alessandro, hai già te in progetto qualche cosa del genere oppure no? Ora no, magari proprio. Oh, scusa, ti ho chiamato Alessandro. Scusa. No, grave errore. Scusami. Non mi ricordo già più. Kenyota bianco, no? Kenyan. Kenyota mi sa un po' di. No, beh, non volevo. Per... Vado Coglione. No, allora diciamo che io vado per gradi. Perché Roberto, se uno va dietro Roberto, ecco, andrebbe dietro a imprese impossibili. Lui dice sì, tanto ce la fai finché non ti vede morto. Fino ad oggi ho avuto ragione. Sì, no, però diciamo che ora la prossima gara un po' più impegnativa è l'Elba Trail, che è all'isola d'Elba, 57 chilometri, oltre 3.000 metri di dislivello. E anche lì partiamo. Naturalmente ci devi arrivare a nuoto. A nuoto. E anche lì partiamo un bel gruppo. Siamo comunque una decina che lo facciamo. Chi fa la distanza più lunga e chi fa quella più corta, comunque sono sempre 21 km. Anche per collegarci al discorso che faceva prima Roberto, oltre al discorso della gara c'è anche il discorso della vacanza, stare in compagnia. Ecco, lo stavo, ascoltandomi mi era venuto in mente proprio questo. Vorrei poi dire anche un'altra cosa, perché qui si parla di corsa. Allora, il nostro gruppo si sta allargando, oltre, diciamo così, a un settore giovanile che sta crescendo, sì, quindi abbiamo anche bambini, si stanno avvicinando al nostro gruppo, e questo a me mi riempie di gioia, persone che ci seguono e vengono a camminare. Perché? Perché dietro l'evento podistico c'è il 90% delle volte anche la passeggiata ludico-motoria. E quindi stare con noi, stare nel nostro gruppo, non deve per forza voler dire correre, ma anche passeggiare. Per questo mi ricollego a quanto stava dicendo Alessandro, il Kenyano bianco, sì, ecco, che all'Elba Trail ci seguiranno anche persone che verranno per fare la passeggiata di 20 km. Però è passeggiando sempre... e camminando. Bello. Certo. Guarda Marcello, che io mi viene... è già un... Marcello non è più scusa. Un cambio di paradigma, perché il passeggiatore vedi passeggiatore, fammela dire, no? C'è il passeggiatore, c'è la passeggiatrice, quindi stai calmo. Lo so, perché purtroppo si è allargato. D'altra parte si è allargato, ognuno ha bisogno dei suoi stimoli per muoversi, insomma. Sì, ok, con calma. Infatti se mi diceva la saga. Scusa Marcello, quando hai lo stimolo vai di corsa, sì. No, allora facciamo così, mettiamo un ultimo brano e poi ci salutiamo, va bene? Vai Simone, vai. We'll be right back. di chiudiamo la scaletta di questa sera con la New Hit, che è il brano Fever dei Black Keys. Il loro nuovo album Turn Blue uscirà il 13 maggio del 1976. Siamo arrivati alla fine, ovviamente, con la morte nel cuore e anche un po' stanchi. Io, no, ma io sono felice, stanco ma felice, perché come dicevo all'inizio, parlando di sport, c'è speranza per tutti, anche per chi come me. No, ora aveva delle certezze Marcello. Altri? Ora è confuso e felice. Confuso e felice, perché noi abbiamo smontato le sue certezze. È vero, l'ho cioè, visto. Quella del divano, la certezza del divano. Ecco, sì, là. Ecco, sì. Ma in un'ottica di un trasloco, il divano, insomma, c'è tutta una serie di cose. Comunque non lo abbandoneresti, eh? Assolutamente no, perché comunque dopo un lungo viaggio, come diceva. Ormai citazioni su citazioni, ragazzi. Proprio. C'è sempre un divano che ti aspetta. Quindi... certo. Dobbiamo arrivare alla fine. Allora, Roberto, starei delle ore a parlare. Diamoci un voi. Appuntamento. Vuoi fare una segnalazione? Sì. Per la prossima 6 ore? Allora, una segnalazione, anzi tre segnalazioni, per capire il tenore delle persone che certo, verranno. Certo, con chi abbiamo a che fare? Sabato prossimo. Abbiamo a che fare con una persona che in 15 anni ha percorso 311 tra ultramaratone e maratone. Chi in 15 anni ha percorso 730 tra ultramaratone e maratone, ma udite udite, chi in 2 anni e mezzo, e ora io mi farò spiegare come ha fatto, 160 tra ultramaratone e maratone in 2 anni e mezzo. Io non ho fatto ancora il conto delle settimane che ci sono in un anno, ma questo ha corso più di una volta, questa, attento, più di una volta a settimana. Potrebbe essere mamma la conferma mia dell'esistenza del dono dell'ubiquità. No. Sono gemelli, probabilmente almeno, quantomeno è gemelli, un'osservazione intelligente, potrebbe... ora non sì, esageriamo, diciamo, Marci, ma cioè, potrebbe essere. No, ma me l'ha scritta qualcuno, non l'ho detto io. Allora, comunque ci sono corse anche qui a Fogliano alla portata di tutti. Beh, ecco, diciamolo, quindi, diciamolo. Ricordiamoci che il 25 aprile siamo arrivati alla 41esima edizione della Camminata del Donatore. L'ho fatta anch'io. Dove? Volevo dire l'ho corsa, ma non esageriamo. Dove? Oltre alla distanza di 12 km e mezzo alla competitiva, ci sono altre due possibilità per i passeggiatori, camminatori che dir si voglia, su percorsi, uno nel verde di 5 km e mezzo e l'altro di 3 km e mezzo. Forse Marcello potresti alzato partire la mano da questo. No, ecco, io io qui sono presente, perché poi non dimenticarti che all'arrivo ci sono le ciaccine fritte. E lui distribuisce ciaccine, vero? E se non volete fare questa, se nessuno vuole fare questi tipi di competizioni, il podismo va comunque bene anche soltanto per il traguardo, ecco, della zona d'arrivo sicuramente. Va bene. Gli stori sono importantissimi, fondamentali direi, fondamentali. Sicuramente. Sara, riprendi in mano la situazione. Sì, vedo che qui il tempo ormai abbiamo sforato di e qualche l'appetito sale minuto a quest'ora. Dai. Allora, io direi intanto di ringraziare i nostri ospiti Alessandro, Tamara e Roberto. Tamara Toneta. E non è Alessandro, eh? È il keniano bianco, scusami. Roberto non è Roberto, ma è il Gambino. È il Gambino. Bene, sì. E allora ci lasciamo con questi vostri soprannomi, ragazzi, grazie, ricordiamo l'appuntamento di sabato, e per riascoltare questa puntata invece collegatevi domani mattina, tarda mattinata, sulla nostra pagina Facebook, dove troverete il podcast di questa 18ª puntata di Piazza Alta. E ragazzi, diamo l'appuntamento a giovedì prossimo. Ecco, appunto, ci sentiamo giovedì prossimo. Ma dove? A tutti. Su Radio F. Ma da quando? Dal 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marci, Enzino, Sara, e alla conduzione tecnica Simone One.